Non riesco a respirare, mi fai male, tu sei dentro di me, tu sei dentro di me, dentro di me. Non riesco a respirare, mi fai male, tu sei dentro di me, tu sei dentro di me. Sento l'acqua scorrere. La tua immagine è una fotografia di una dolcezza ormai coperta di polvere. La nostalgia è una lingua sul collo che mi bacia e poi mi dice di correre, di non respirare il tuo profumo, di non parlare a nessuno, di perdermi tra i libri, bicchieri vuoti, tazzine sporche e l'odore del fumo. Io resto a digiuno e non ho forze per lottare contro i miei ricordi uno per uno. La mia bic sostiene le mie gambe che scattano se mi sento spalle al muro. Mi sento insicuro e mi diverte il fatto che anche tu in fondo non sei diversa da altre. Lo so, ma chiudi le mie palpebre, rilasci le mie lacrime. Tu lasciami perdere, voglio solo scappare da te. Tu lasciami vivere, voglio solo scappare da te. Ti sento ridere più forte a volte, mi chiedo se ridi di me. È per questo che ti guardo e mi dico che dovrei odiarti, perché un'altra strada per dimenticarti non c'è. Questa casa è così vuota e da brava amica mi tiene stretto a sé. Con la mia faccia tra le mani dice che non devo più rispondere ai tuoi richiami. Faccio un origami, sistemo i pensieri su più ripiani, e so che domani non mancherai di sconvolgere ancora i miei piani. Ma dico a me stesso che non sono stoffa esanime ai tuoi ricami, e quindi mi lascio andare alla mia tristezza, alla solitudine che mi accarezza, alla disillusione che mi tiene compagnia e alla noia che in fondo non mi disprezza. Tu lasciami perdere, voglio solo scappare da te. Tu lasciami vivere, voglio solo scappare da te. Non riesco a respirare, mi fai male, tu sei dentro di me. Tu sei dentro di me. Sonny, ha. Monkey Prod 1 MLA. Cazzo, è finito? Mi sono protratto troppo. Sto continuando a registrare, continuerò a registrare. Cioè, fino a che... Sì, praticamente tu mi fai con la testa, sì. Quindi praticamente, cioè, adesso devo inventarmi qualcosa da dire. Vabbè, questo è il numero 5, io sono Frankie Flow. Lancia il prossimo pezzo. Ah, ok. E qual è il prossimo pezzo? Boh. Ok, signore e signori...